Aretha Franklin con Respect ci porta in diretta alle 17:03 minuti all'Indigesto in questa puntata speciale, la prima delle tre. La prossima sarà lunedì alle 14:30 quando le redattrici di Frequenze Sui Generis parleranno delle modalità dello sciopero dell'8 marzo, sciopero femminista. Andranno un po' più nel dettaglio di che cos'è, non una di meno, anche insomma se ve ne parliamo da tempo, ma di come si svolgerà anche questo sciopero. Noi oggi invece vogliamo approfondire alcune delle ragioni che portano le donne ad incrociare le braccia per la seconda volta in questa giornata. Noi siamo al telefono con Nora di Non Una Di Meno Bologna, che saluto. Buon pomeriggio, Nora. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, basterebbe guardare qualunque giornale per capire che le ragioni per scendere in piazza ce ne sono tantissime, ma oggi vogliamo concentrarci un po' sul tema del lavoro, diciamo così. Spesso abbiamo parlato di gender gap, ma si dice tanto e come dire, si fa poco. Puoi aiutarci a fotografare il problema? Sì, dunque, allora, intanto il gender gap, si intende questo, gender pay gap, vuol dire sostanzialmente una differenza nella retribuzione, quindi un differenziale retributivo tra uomini e donne. Allora, questo dato non è di facile accesso, perché occorre tener conto di diverse questioni. In sostanza, se noi andiamo a fare a prendere il dato semplicemente grezzo, a vedere la paga oraria, non si vede molto bene questo differenziale, perché il differenziale è minimo, è un 6%. Ma il problema fondamentale è che le donne hanno una paga complessiva molto più bassa di quella maschile, perché sono spesso costrette a lavori di minore durata giornaliera. Per esempio, pensiamo al part-time, che molto spesso è imposto dalla controparte, ovvero la lavoratrice è costretta a prendere part-time per svolgere tutto quel lavoro che si definisce di riproduzione, quindi cura familiari, bambini, anziani, eccetera, e che fa sì che non abbia poi tempo per lavorare il lavoro retribuito. E quindi cosa succede? Che se noi guardiamo la paga complessiva mensile o annuale, il gap raggiunge il 50-70%, che è un dato mostruoso se ci pensiamo. E cioè, vuol dire che proprio è alla base che non c'è per le donne la possibilità di avere quell'autonomia economica che abbiamo individuato come una delle questioni fondamentali anche per sfuggire alle situazioni di violenza, per esempio domestica, no? Non so, certo, se sono riuscita a spiegare. No, certo, ecco, una cosa che non abbiamo detto, ma insomma le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Fujiko hanno sentito questa parola spesso, gender gap, è che stiamo parlando di paga a parità di mansioni, quindi non è che si raffrontano, come dire, i dirigenti con certo, e quindi questo insomma dà il senso. Ma tra le tue parole si capisce anche che non è solo una questione magari di datori di lavoro che discrimina un po' tutta la società, perché tu parlavi del part-time imposto o anche, come dire, scelto per dover poi fare il lavoro di cura, e quello ovviamente ci parla molto del ruolo di genere a cui è relegata la donna. Infatti, questa è la questione di fondo, perché se vogliamo dare un altro dato che è molto indicativo, le donne spendono circa oltre 300 minuti al giorno, che sono circa 5 ore, per il lavoro non pagato, mentre gli uomini 100 minuti, che è un'ora e 40. Per capirci, cioè, cosa vuol dire? Quello è tutto lavoro che non è retribuito, tutto lavoro che pesa sulle donne. E che quindi noi abbiamo sempre fin dall'inizio individuato in questo aspetto una delle questioni strutturali della violenza, che abbiamo definita la violenza è un fenomeno strutturale della società e non episodico o emergenziale come viene narrato, no? Molto spesso nei media. E abbiamo individuato anche come, oppure nella narrazione delle forze politiche, insomma, che più che altro strumentalizzano o non altro, e abbiamo individuato come fondamentale anche questo aspetto di difendere noi i servizi pubblici, proprio perché laddove esistono servizi pubblici effettivi di aiuto alle persone, servizi per l'infanzia, servizi per gli anziani, allora lì il carico di lavoro che grava inevitabilmente per il condizionamento complessivo che grava sulle donne diminuisce, ed è per questo che siamo in prima linea nella difesa dei servizi pubblici, insomma, in questo momento così di sfrenato neoliberismo. Certo, ecco, prima di arrivare anche a una proposta che fa non una di meno, in particolare il reddito di autodeterminazione, vorrei concentrarmi con te su una notizia che è uscita qualche giorno fa, un'indagine dell'Istat che parla delle molestie e dei ricatti sul luogo di lavoro. 4 donne su 10 hanno subito nella loro vita lavorativa anche molestie o ricatti proprio sul luogo di lavoro, quindi insomma abbiamo parlato di retribuzioni, ma anche l'ambiente di lavoro non è che sia meglio. No, infatti questo dato è venuto fuori appunto di recente da una rilevazione dell'Istat. Io che appartengo a USB, noi come qualche sindacato che abbiamo indetto lo sciopero, l'abbiamo messo nel nostro volantino di convocazione dello sciopero. Cioè questo dato per cui 1.400.000 donne hanno dovuto subire ricatti sessuali o per accedere al posto di lavoro o per poter mantenere il lavoro o per poter anche migliorare la propria condizione lavorativa all'interno del posto di lavoro. E se ci pensiamo, noi siamo immersi in una narrazione in cui viene individuata come colpevole la donna, no? Quando per esempio in qualche modo subisce il ricatto e quindi è costretta a questa, evidentemente magari subisce un ricatto di prestazione sessuale, viene indicata lei come la colpevole anziché chi fa questo ricatto. Questo è il problema di fondo per cui l'indagine rileva come le donne non denuncino, ma chi dovrebbero denunciarlo per essere poi considerate quelle che ci sono state, no? Ed è questa una delle violenze più pesanti che subiscono le donne nel posto di lavoro, molto spesso appunto costrette a abbandonare il posto di lavoro per questo motivo, anche se poi noi diciamo che una violenza di tipo economico è anche quella che viene fatta quando si fa pressione per le donne anche per non poter scegliere la maternità, ad esempio, no? Sì, c'era il fenomeno delle dimissioni in bianco. Delle dimissioni in bianco, comunque del colloquio di lavoro dove la prima cosa che ti chiedono è se hai intenzione di fare figli. Cioè, questa è una profonda violenza economica che subiamo e l'abbiamo messo anche nei nostri spot, come non una di meno, che stanno girando sulla rete. Insomma, è tutto molto intrecciato, se riusciamo in qualche modo a capirlo, come è tutto molto intrecciato in questa vicenda e in questo sistema violento. Certo, poi senza considerare anche il linguaggio sessista dei colleghi e tanti altri fenomeni, e in particolare la precarietà che colpisce maggiormente, per le ragioni che abbiamo appena raccontato, le donne. Voi di non una di meno parlate di reddito di autodeterminazione, che cos'è? Allora, noi abbiamo fatto un ragionamento su cosa si può fare e quali sono appunto quegli obiettivi che ci possiamo dare nell'immediato. E noi il reddito di autodeterminazione l'abbiamo definito incondizionato e universale. Cosa vuol dire incondizionato? Dobbiamo capirlo se lo raffrontiamo con le proposte in campo. Le proposte in campo parlano sempre di un reddito condizionato alla disponibilità assoluta a qualsiasi prestazione lavorativa. In sostanza sono proposte che pensano al lavoratore come colpevole di non avere il lavoro Che quindi lo descrivono, lo narrano in questo modo. Noi riteniamo che invece il reddito debba essere incondizionato, universale, slegato quindi da una prestazione lavorativa e anche tutto sul discorso della cittadinanza e del permesso di soggiorno. Noi, il nostro movimento ha dentro le lavoratrici migranti e quindi legge tutti i fenomeni, la condizione lavorativa a partire dalla condizione anche delle migranti, per cui deve essere così, ma non può essere solo un'unica misura a sé, deve essere integrato da un ragionamento sul salario minimo, anche questo l'abbiamo sviscerato, insomma, un salario minimo europeo per contrastare i bassi salari, i meccanismi appunto che abbiamo detto di gender gap, di dumping salariale tra i differenti territori e con un ragionamento complessivo sulle condizioni di lavoro, sul precariato, cioè il discorso deve stare assieme, se no non ha nessun senso, cioè lo vediamo nella campagna elettorale, no? Quando si lanciano questi proclami sui redditi svincolandoli da un discorso complessivo anche sul lavoro, no? Sul lavoro non precario, sul lavoro con diritti, no? Certo, e a proposito di campagna elettorale, scusami se ti interrompo, ti chiedo un'ultima battuta perché a proposito delle proposte che vengono avanzate da diverse forze politiche, oggi si parla sempre di famiglie, di bonus per i bebè, insomma costringendo la donna poi in un ruolo che è quello familiare e tradizionale in quanto madre. Sì. Infatti non c'è dubbio, quando noi diciamo appunto reddito incondizionato, lo diciamo proprio perché deve essere un reddito che la donna deve avere, perché se lo leghiamo alla famiglia inevitabilmente non andrà mai incontro alle esigenze appunto della donna di poter avere quell'autonomia economica indispensabile alla sua autodeterminazione. Tutti questi ragionamenti che si fanno invece nella sfera della politica ufficiale prendono esclusivamente a riferimento la famiglia e ingabbiano inevitabilmente le donne dentro il ruolo familiare, per cui o stai dentro ma non ne puoi uscire e quindi qualsiasi situazione anche di violenza che ti trovi a subire non hai nessuna uscita con questo tipo di impostazione, questo che noi abbiamo criticato fin dall'inizio. Certo. Ionora, ti ringrazio, fra poco sentiremo un'altra tua collega di Non Una di Meno, Paola, e intanto grazie per il tuo contributo. Ok, grazie a voi e buona continuazione, buon pomeriggio a tutti. Grazie, ciao. Princess Nokia con Kitana ci riporta in diretta alle 17:18 minuti, sempre all'interno di questo speciale, questo primo speciale dell'indigesto di Radio Città Fujiko sullo sciopero del prossimo 8 marzo, di giovedì prossimo, proclamato da Non Una di Meno, sciopero femminista che torna per la seconda volta. Dopo aver parlato con Nora e aver parlato appunto del gender gap, delle molestie anche sul luogo di lavoro, tutte le forme anche di ricatto, di violenza economica nei confronti delle donne e del reddito di autodeterminazione, torniamo in diretta con Paola che è al telefono con noi. Ciao Paola. Ciao a tutti. Allora, una cosa che colpisce, adesso io non sono come dire, non ho studi storici specifici, però non so se Non Una di Meno è il primo o tra i primi movimenti che unisce la lotta alle violenze e alle discriminazioni di genere alla lotta al sistema neoliberale neoliberista. È una peculiarità questa. Sicuramente è quello il segno più caratteristico di questo movimento. È chiaro che anche nella storia il movimento femminista è stato parte di movimenti più ampi di contestazione, dal movimento operaio ai movimenti per la lotta dei diritti civili dei neri, cioè ci sono stati moltissimi casi in cui le lotte si sono inevitabilmente intrecciate. state, sia perché magari appunto le istanze femministe nascevano all'interno di altri movimenti dai quali poi si sono in parte autonomizzate, sia perché è stato comunque uno sforzo almeno di una parte del femminismo storico quello di fare vedere che nesso c'è tra la subordinazione delle donne, l'oppressione delle donne e la violenza che subiscono e dei processi più ampi. Bisogna però dire che quello che rende questo movimento davvero una novità eccezionale è il fatto che in tutto il mondo, in un momento in cui il neoliberalismo si pone come un ordine che non tollera, non prevede nessuna alternativa, le donne siano l'unico movimento che sta realmente guidando su scala planetaria un'opposizione politica al neoliberalismo. Faccio soltanto alcuni esempi. Prendiamo le manifestazioni delle donne contro Trump negli Stati Uniti. Sono state le donne che hanno inaugurato la presidenza di Trump, che è letteralmente il rappresentante dell'intreccio tra neoliberalismo, neoconservatorismo, razzismo più sfrenato, suprematismo bianco e patriarcato e sessismo. Sono state le donne che hanno dato vita a una manifestazione planetaria di protesta che ha dimostrato che la partita, diciamo così, non si è decisa nelle urne, ma è tuttora aperta. In Argentina le donne stanno del movimento di Ni Una Menos stanno dando vita a grandissime mobilitazioni contro le riforme del sistema pensionistico, che è soltanto una delle politiche di austerità neoliberali del governo argentino degli ultimi anni, e hanno continuato a intrecciare le nuove rotte, le loro lotte, per esempio, con i processi di espropriazione della e privatizzazione di vastissime parti del territorio argentino, che sono praticamente sotto il dominio delle corporation. E quindi questo è soltanto un esempio, sono soltanto due esempi di come a livello mondiale le donne stiano riuscendo a indicare letteralmente la possibilità di alzare la testa, di insubordinarsi e di opporsi a un regime globale che ci viene presentato come inevitabile. Però c'è anche qualcosa di più, cioè il fatto che si sta costruendo un'analisi che dimostra un discorso politico condiviso a livello globale, che rende evidente come la violenza patriarcale, maschile, di genere, non sia soltanto un qualcosa che riguarda le donne, come se fossero una categoria separata che dovrebbe essere protetta o risarcita o quant'altro. Le donne stanno facendo vedere, le femministe con dei momenti di insubordinazione di massa stanno facendo vedere che questa violenza serve letteralmente a incrementare l'estrazione di profitto, a precarizzare e a dividere, perché neoliberalismo dal punto di vista del lavoro significa isolamento, significa frammentazione, debolezza. Ci sono la questione del MeToo e delle molestie sul luogo di lavoro è assolutamente emblematica, cioè si crea un segmento di lavoratrici che sono sistematicamente umiliate, inferiorizzate attraverso le violenze, molestie subite sui luoghi di lavoro, che sono disciplinate secondo il principio voi dovete essere pienamente disponibili, e questi sono i caratteri del lavoro contemporaneo: piena disponibilità, subordinazione assoluta e isolamento, perché una donna che subisce violenza si sente prima di tutto prioritariamente isolata dal corpo collettivo del lavoro. Allora il fatto di dare una risposta femminista alle molestie sul lavoro, il fatto di mostrare che queste molestie, che la violenza sessuale, sono soltanto dei modi per affermare le gerarchie che organizzano la società, è esattamente il modo in cui questo movimento dice: guardate che il neoliberalismo passa per la lotta al neoliberalismo passa per questa battaglia femminista. Ecco, un'altra chiave, insomma, si evince da quello che ci hai detto, è la dimensione transnazionale di questo movimento. Spesso si ragiona sui movimenti sociali italiani o anche di diversi stati, che da soli non sembrano, come dire, fare massa critica a sufficienza o incidere in qualche modo. Quindi, come dire, la dimensione è per forza quella transnazionale. Sì, diciamo così, credo che siano diversi anni che i movimenti su scala locale, nazionale, hanno compreso che i processi contro i quali organizzano le loro lotte davvero hanno una scala sempre più ampia. Cioè, se noi pensiamo semplicemente come è organizzato il lavoro, no? Il fatto che è quella cosa che è stata denunciata negli ultimi anni come i processi di delocalizzazione, le lotte operaie qui sono state sconfitte anche spostando altrove la produzione, e, non soltanto nella produzione, ma anche se pensiamo alla logistica, a un settore che è stato dentro ad alcune delle lotte più importanti ultimamente, è un settore necessariamente dispiegato attraverso i confini e dove c'è una forza lavoro migrante che è centrale dentro l'organizzazione della logistica stessa. Pensiamo alle catene della cura, cioè al fatto che mentre i sistemi nazionali di welfare vengono smantellati, sono determinati regimi di governo dei confini e della mobilità delle donne che servono per colmare i buchi, no? E quindi abbiamo assistito negli ultimi anni a sanatorie, per esempio, finché c'erano le sanatorie riservate esclusivamente alle badanti, perché c'era semplicemente bisogno di una forza lavoro tendenzialmente femminile, perché questo è il prescritto, diciamo così, dalla divisione sessuale del lavoro, che svolgessero determinate attività domestiche di cura. Allora, è evidente che questi processi hanno una scala transnazionale ed è notevole il modo in cui il movimento femminista e lo sciopero globale delle donne hanno indicato una possibilità di reagire sullo stesso livello dei processi in corso. Ed è complicato, perché non si tratta, e questo dobbiamo saperlo, di una organizzazione strutturata a livello globale. Ci sono state, e vi ho preso personalmente parte anch'io, delle Skype call che comprendevano 25 paesi, fatte secondo un criterio successione per fusi orari. E per cui hanno parlato prima quelle che erano lì al telefono alle 3 di mattina e solo in ultima istanza quelle che stavano chiamando a mezzogiorno, per intenderci. Però in realtà c'è un processo globale che è al di sopra di questo lavoro organizzativo che pure si sta facendo e che lo rende possibile. E le ondate di manifestazioni che abbiamo visto ovunque in tutto il mondo in questi anni, di donne che hanno lottato per le situazioni più diverse nei loro diversi contesti locali e nazionali, in realtà hanno come filo conduttore, primo, quello che dicevamo prima, cioè una visione chiara del rapporto che c'è tra la violenza patriarcale e di genere e dei processi più ampi di sfruttamento, di oppressione, di impoverimento, di cancellazione della democrazia e così via. Ma dall'altra parte è proprio la lotta che ha creato le condizioni per questa connessione globale. Lo sciopero è il nome di una lotta che è stata trasformata in una pratica politica femminista, che ha introdotto una novità in cui movimenti assolutamente eterogenei si sono riconosciuti, soggettività assolutamente eterogenee si sono riconosciute e stanno continuando a portarlo avanti, evidentemente con effetti diversi, perché l'esperienza argentina è incomparabile a quella rispetto con quella italiana, oppure con altre situazioni come la Turchia o l'Ucraina, che prenderanno pure parte alla mobilitazione dell'8 marzo. Eppure contemporaneamente anche questo fa vedere che i processi globali si alimentano di differenze di intensità della violenza patriarcale, dello sfruttamento e così via, che però sono parte di un unico sistema. E lo sciopero è femminista, è il tentativo di trasformare questo legame che è utilizzato per opprimerci in un punto di forza. Noi ci connettiamo rivoltandoci contro questo insieme di sistemi di oppressione e di sfruttamento, appunto. Certo, io ti ringrazio. Io ringrazio molto voi e ci vediamo l'8 marzo in piazza.